Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Trovo ottimista, se non addirittura eufemistico, il fatto che possiamo solo pensare ad un americano medio che viaggia con la 500, con la Croma o con le altre vetture del gruppo Fiat. Sono possessore di un fuoristrada americano, grosso, inquinante, infatti è già Euro 5, con 250.000 chilometri. Per esperienza personale vorrei ricordare che le auto italiane hanno una scadenza. Sono rare le auto nostrane che riescono a superare i 200.000 chilometri. Conoscendo per motivi professionali l'acquirente statunitense, vi posso assicurare che probabilmente per i primi 2 anni si venderà, ma successivamente il decadimento dell'auto italiana, problemi di elettronica, assistenza scadente, eccetera, causerà un effetto boomerang. Forse le nostre micro e medie vetture potranno avere successo nelle metropoli, che alla fine però sono solo 3, New York, Los Angeles e Las Vegas. Ma nella sperduta provincia, dove ci sono 300-400 chilometri tra una città e l'altra, voglio proprio vedere se saranno felici e contenti di viaggiare in 500. È come se noi da domani girassimo con i mastodontici veicoli americani per le stradine di Milano o di Genova. Matteo. Gentile direttore, dire di essere indignata è poco. Qualche giorno fa ho sentito una sua risposta data ad un radioascoltatore nella quale lei affermava che non bisogna rifarsi più alla lira. Direttore, forse il suo stipendio è equiparato al valore dell'euro? Quelli invece che hanno lo stipendio rapportato al valore della lira non riescono ad arrivare neanche a fine mese. Mi chiedo perché se un commerciante prima vendeva i propri prodotti alla metà del costo di oggi e riusciva a pagare 1 milione di lire al proprio dipendente, oggi che i prezzi dei prodotti sono raddoppiati, mi correggo, triplicati, gli stipendi invece non sono raddoppiati. Tengo a precisare che non rimpiango la lira, ma condanno la cattiva gestione del cambio. C'è stata troppa speculazione da parte di tutti, anche da parte del governo, che avrebbe dovuto sorvegliare e non l'ha fatto. Oggi il potere d'acquisto è pressoché nullo. Non ci sono soldi per le emergenze, neanche per quelle essenziali, come le visite mediche. Ci si indebita per poter acquistare i beni di prima necessità. Tutti i settori sono in crisi. Gli stessi settori che ieri hanno speculato, oggi chiedono finanziamenti allo Stato. Ma per cosa? Se l'economia è ferma e nessuno può fare acquisti, per gravare ulteriormente sul bilancio pubblico? Altro che ottimismo, come suggerisce il signor Berlusconi. Questo vale per lui e per quelli come lui, ma chi subisce la crisi sulla propria pelle ha poco spazio per l'allegria. Anzi, siamo tutti incavolati e pronti a fare scintille. Adele. Vado allo stadio e sono razzista. Sono razzista nei confronti di quelle persone che all'arrivo del pullman, dei tifosi avversari, gli vanno incontro sputando e lanciando sassi. Sono razzista verso coloro che allo stadio intonano cori irripetibili contro i calciatori e contro la squadra e la città avversaria. Sono razzista verso la persona distinta, seduta in tribuna accanto a me, che per tutta la partita insulta pesantemente l'arbitro, i calciatori e un tifoso avversario che ha la colpa di portare una sciarpa della squadra avversaria. Sono razzista verso coloro che lanciano di tutto in campo, magari solo per contestare una decisione dell'arbitro. Sono razzista verso le persone che in curva espongono striscioni offensivi e verso colui che in curva sta girato con le spalle alla porta e col megafono in mano scandisce i cori autoreferenziali degli ultra, senza vedere nemmeno un minuto di partita. Sono razzista nei confronti di coloro che sfasciano i treni e devastano tutto, nei confronti di coloro che offendono le forze dell'ordine. Se fare discriminazione nei confronti di queste persone è razzismo, io sono razzista. Lo stadio è diventato un posto orribile e invivibile. Sono schifato da una parte delle persone che lo frequenta. Queste persone stanno rovinando uno sport bellissimo e la cosa più fastidiosa è che ho l'impressione che si faccia molto poco o quasi nulla per contrastare questo schifo. E non capisco perché certe persone possano entrare ancora allo stadio. Tornerò allo stadio quando i tifosi di casa e avversari si dirigeranno verso lo stadio camminando fianco a fianco, senza polizia e in assetto da guerriglia, quando i genitori non avranno più paura di mandare i loro figli allo stadio con gli amici o col nonno, quando il tifo sarà per la propria squadra e non contro la squadra avversaria. Allora tornerò allo stadio. Ho 30 anni, spero di riuscire a vivere qualcosa del genere in Italia, altrimenti sarò costretto ad andare in Inghilterra per assaporare quel gusto di andare allo stadio che non ho mai provato. Alberto, da Cagliari. Mi pare evidente che un paese come il nostro dovrebbe consolidare il sistema bipartitico di stampo anglosassone che alberga, con buoni profitti per la democrazia, anche in altri grandi paesi quali Francia, Spagna, Germania, i paesi scandinavi, eccetera. Paesi cioè dove un partito più conservatore o di stampo cristiano popolare si confronta con un partito progressista di stampo socialdemocratico. Ora, mentre in Italia esiste qualcosa che, seppure con molte peculiarità, come accade in quasi tutti i fatti italiani, assomiglia ai conservatori, non si riesce a trovare un partito social riformista. Forse questo accade anche perché l'azione del governo Berlusconi, paradossalmente, esercita prevalentemente un'azione socialdemocratica. Come si potrebbe definire infatti l'operato di ministri come Brunetta, Sacconi, Tremonti e Frattini, che a suo tempo ebbero la tessera del PSI di Craxi? Se tale premessa è vera, si spiegherebbe anche meglio l'affanno con cui le testate che osteggiano Berlusconi ruminano disperatamente sugli aspetti meno rilevanti dell'azione del primo ministro. Intendiamoci, il cavaliere non avrà l'allure di Giscard d'Estaing o lo spessore di Winston Churchill. È il classico piccoletto visionario che vuol compensare con la statua in Campidoglio le frustrazioni del metro e 60. Intelligente, scaltro, cinico, infaticabile e anche un po' sporcaccione. Però, se dice che in Italia bastano 100 deputati con lo stesso numero di rappresentanti pro abitante degli Stati Uniti, non dice un'eresia autoritaria di stampo fascista, ma afferma un obiettivo che tanti vecchi liberali come me auspicano. Se dice che bisogna cambiare l'assetto del nostro apparato giudiziario, ripete ciò per cui io, vecchio simpatizzante radicale, mi sono battuto con i referendum. Non sarebbe meglio quindi che la stampa, invece di polarizzare le attenzioni degli italiani su affari privati irrilevanti, ponesse al centro dell'attenzione l'operato del governo? Tremonti ha operato bene con gli istituti di credito oppure no? La Gelmini sta realmente riformando la scuola? Cosa pensa la sinistra del libro bianco di Sacconi? Come giudica Franceschini il dietrofront di Frattini nei confronti di Teheran e il patto di acciaio tra Putin e Berlusconi? E ancora, cosa fa Bertolaso in Abruzzo? L'Alitalia sta diventando un'azienda efficiente o no? I rifiuti in Campania sono tornati oppure no? Infine, cosa si aspetta la sinistra da questa Europa? Certo, è molto più organico al giornalismo tipo bar dello sport indagare su chi era nel tavolo dietro il Premier nella cena che ha avuto luogo 6 mesi fa per cercare di evocare uno scandalo che non scandalizza nessuno. Sono convinto che il dramma dell'Italia non sia Berlusconi, bensì il fatto che non abbiamo niente di meglio. Sandro, Genova. Per un presunto bacio, un tale Andreotti Giulio subì un interminabile e costosissimo processo politico, mediatico, giudiziario e morale. Per colpa di 4 integerrimi mafiosi che ammazzarono così tante persone, ma che non avrebbero mai ammazzato la verità. Per la morte di un mio congiunto 23enne, letteralmente assassinato da un camionista criminale, i giudici sentenziarono con una pacca sulle spalle. Per i mafiosi condannati perché colpevoli, non si trova il tempo per scrivere la sentenza. E loro tornano liberi. Per Cesare Battisti, non il patriota trentino, ma il brigatista assassino, c'è una condanna singolare. Girare il mondo, scrivere libri, subire la notorietà. Per il cittadino Berlusconi Silvio, l'Italia non è uno stato di diritto, bensì uno stato di rovescio. Egli è colpevole fino a prova del contrario. Mi si creda o no, sono un libero pensatore e sono un italiano. Un italiano che ama la sua patria e i suoi connazionali. Non posso tuttavia non sentirmi a disagio nell'appartenere a un popolo che è fra i più litigiosi al mondo, ad una nazione popolata all'inverosimile da avvocati, a uno Stato con una giustizia lumaca e che si attorciglia con pindarici sofismi e con sentenze chilometriche, che rischia di spingere i somari ad essere più somari e gli onesti a subire i calci dei somari e a temere pure gli schiaffi della giustizia, quella con la G minuscola. Non sono il giacobino Robespierre, né l'utopista Bacone. Sono solo uno sconosciuto signor nessuno che ha voluto dire la sua, bandendo sia ghigliottine sia chimere e brandendo, si fa per dire, la pipa di nonno buonsenso. Aurelio. Egregio direttore, come cittadino italiano sono preoccupato, molto preoccupato. Come la storia insegna, Stalin and Company eliminavano gli oppositori, le persone sgradite finivano in Siberia. Così Hitler, Mussolini and Company. Ma non mi risulta che Mussolini sia mai stato inquisito o accusato. Non mi risulta che l'opposizione di Mussolini, poi costretta alla fuga o messa in un angolo, denigrasse, insultasse, denunciasse l'avversario. Ecco perché fu istituita l'immunità ai parlamentari. Casualmente il periodo Tangentopoli ha ottenuto l'eliminazione dell'immunità, cosa che allora era sembrata una sana e giusta operazione da parte di tutte le forze politiche. Quali sono i risultati? I risultati si vedono, si leggono, si ascoltano. Le campagne elettorali sono fatte su illazioni nei confronti dell'avversario, perlomeno da parte di alcuni partiti, che contestualmente non parlano mai dei loro programmi, non spiegano ai cittadini le loro motivazioni e le loro proposte in merito a qualsiasi cosa venga fatta dall'attuale governo. L'unica cosa che ho capito da alcuni esponenti politici è che bisogna ridurre le tasse e aumentare gli stipendi, cosa peraltro opposta a ciò che gli stessi hanno proposto durante la precedente legislatura. Stefano. In Italia continua a regnare un'irresponsabilità diffusa. Lo scenario nazionale, tolto di mezzo Berlusconi, è quello jugoslavo. Senza Elgan Assa non c'è nessuno in grado di avere una maggioranza, nessuno con una visione condivisa da almeno un 35% degli italiani sul futuro del paese, nessuno capace di difendere gli interessi nazionali con i partner internazionali, nessuno in grado di tagliare le unghie ai famelici poteri locali, eccetera, eccetera. Immaginate il resto. A me pare di stare in una nave di matti e bigotti. Alessio. Gentilissimo direttore, fra le lettere a lei dirette qualche giorno fa, ve n'era una che citava un documento statunitense sugli immigrati italiani ante Prima Guerra Mondiale, trattandoli come oggi il governo vuol trattare gli immigranti africani nel nostro paese. Evidente la solita impronta utopistica della sinistra. A questo signore andrebbe ricordato che negli Stati Uniti il numero di abitanti per chilometro quadrato era assai inferiore al nostro e che le risorse del territorio erano enormemente superiori alle nostre. Carlo. Gentile Carlo, l'immigrazione italiana in America nei primi anni del Novecento viene spesso evocata per ricordare come fossero gravi e grandi i disagi che chi veniva dall'Europa doveva subire per ricostruirsi una vita e trovare un lavoro al di là dell'Atlantico. E anche per ricordare come l'Italia sia stata per decenni una terra d'emigrazione, non solo negli Stati Uniti, ma anche in America Latina, in Australia e in anni più recenti, nel secondo dopoguerra, in Francia, in Belgio, in Svizzera, in Germania. Il significato è molto semplice. Siamo stati emigranti anche noi. Cerchiamo di accogliere e di capire, ora che siamo diventati terra di immigrazione, chi cerca accoglienza e lavoro. È giusto ricordare questi fatti, è giusto guardare la nostra storia. Meglio se lo facciamo per evitare agli altri le ingiustizie e le angherie che hanno dovuto subire gli italiani emigrati nell'ultimo secolo. Senza dimenticare, tuttavia, che anche l'umanità, la tolleranza e l'accoglienza hanno bisogno di regole e di equilibrio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.